Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan raccontò al cardinale l'avvelenamento di Madame Bonacieux nel convento delle Carmelitane di Béthune, il processo a Milady nella casupola isolata, l'esecuzione sulle rive della Lys. Un brivido corse per le membra al cardinale, che non era uomo da rabbrividire facilmente. Ma d'un tratto, quasi sotto l'influsso di un muto pensiero, la fisionomia del cardinale, fin allora tetra, si schiarì grado a grado fino alla serenità più assoluta. «E così», disse con una voce la cui dolcezza contrastava con la severità delle parole, «vi siete costituiti giudici, senza pensare che coloro i quali non hanno l'ufficio di punire e puniscono sono degli assassini. Monsignore, vi giuro che non ho avuto neppure per un attimo l'intenzione di difendere la mia testa contro di voi. Subirò il castigo che vostra eminenza vorrà infliggermi. Non amo abbastanza la vita per temere la morte». «Sì, lo so. Siete un uomo coraggioso, signore», aggiunse il cardinale con voce quasi affettuosa. «Posso quindi dirvi fin d'ora che sarete giudicato e anche condannato. Un altro potrebbe rispondere a vostra eminenza che ha in tasca la grazia. Io mi limiterò a dirvi: ordinate, monsignore, sono pronto». «La grazia?» disse Richelieu meravigliato. «Sì, signore», rispose D'Artagnan. «È firmata da chi? Dal re?» E il cardinale pronunziò queste parole con una strana intonazione di disprezzo. «No», disse D'Artagnan, «da vostra eminenza». «Da me? Siete pazzo, signore? Monsignore riconoscerà di certo la propria scrittura». E D'Artagnan porse al cardinale il prezioso foglio che Athos aveva strappato a Milady e dato a D'Artagnan perché gli servisse da salvaguardia. Sua eminenza prese il foglio e lesse lentamente, calcando su ogni sillaba: «Su mio ordine e per il bene dello Stato, il latore della presente ha fatto quello che ha fatto. Richelieu, 5 agosto 1628. Dopo la lettura di queste due righe, il cardinale si concentrò a lungo, ma non restituì il foglio a D'Artagnan. «Sta meditando sul genere di supplizio con cui farmi morire», disse fra sé a bassa voce D'Artagnan. «Ebbene, giuro che vedrà come muore un gentiluomo». Il giovane moschettiere si trovava in un'eccellente disposizione per morire eroicamente. Richelieu continuava a riflettere, arrotolando e srotolando tra le mani il foglio. Finalmente levò il capo, fissò il suo sguardo d'aquila su quella fisionomia leale, aperta, intelligente, lesse su quella faccia rigata dalle lacrime tutte le sofferenze patite in un mese, e per la terza o quarta volta pensò quale avvenire avesse quel ragazzo di 21 anni e quali frutti l'attività, il coraggio e l'intelligenza di lui potessero offrire a un buon maestro. D'altro canto, i delitti, la potenza, il genio infernale di Milady avevano già più di una volta spaventato il cardinale. Egli provava quasi una gioia segreta di essersi sbarazzato per sempre di quel complice pericoloso. Lacerò adagio il foglio che D'Artagnan gli aveva con tanta generosità consegnato. «Sono perduto», disse tra sé il giovane, e si inchinò profondamente davanti al cardinale come uno che dica: «Signore, sia fatta la vostra volontà». Il cardinale si accostò al tavolo e, senza sedersi, scrisse poche righe su di una pergamena di cui i due terzi erano già compilati e vi appose il sigillo. «Questa è la mia condanna», disse tra sé D'Artagnan. «Mi risparmia la noia della Bastiglia e le lungaggini di un processo. Molto gentile da parte sua». «Ecco, signore», disse il cardinale al giovane, «vi ho preso un assegno in bianco e ve ne rendo un altro. Il nome manca su questo brevetto, lo scriverete voi stesso». D'Artagnan prese il foglio esitante e vi buttò gli occhi sopra. Era una luogotenenza nel corpo dei moschettieri. D'Artagnan si gettò ai piedi del cardinale. «Monsignore», disse, «la mia vita è vostra. D'ora innanzi disponetene pure, ma il favore che mi accordate io non lo merito. Ho tre amici che sono più meritevoli e più degni». «Siete un bravo ragazzo, D'Artagnan», interruppe il cardinale, lieto di aver domato quella natura ribelle, e gli batté familiarmente la mano sulla spalla. «Fate del brevetto ciò che volete, però ricordatevi che, sebbene il nome sia in bianco, lo do a voi». «Non lo dimenticherò mai», rispose D'Artagnan. «Vostra Eminenza può esserne certa». Il cardinale si voltò e chiamò a voce alta: «Rochefort!» Il cavaliere, che senza dubbio stava dietro la porta, entrò immediatamente. «Rochefort», disse il cardinale, «vedete qui Monsieur D'Artagnan. Lo accolgo nel novero dei miei amici. Perciò un bel abbraccio e giudizio, se ci tenete a conservare la testa». Rochefort e D'Artagnan si abbracciarono sfiorandosi appena le labbra, ma il cardinale era lì a osservarli con il suo occhio vigile. Uscirono dalla stanza insieme. «Ci ritroveremo, vero signore?» «Quando vorrete», fece D'Artagnan. «L'occasione verrà», rispose Rochefort. Fece Richelieu aprendo la porta. I due uomini si sorrisero, si strinsero la mano e salutarono Sua Eminenza. «Cominciavamo a spazientirci», disse Athos. «Eccomi, amici miei», rispose D'Artagnan, «non solo libero, ma in auge. Ci racconterete tutto stasera stessa». Difatti, la sera stessa, D'Artagnan si recò all'alloggio di Athos, che trovò intento a vuotare la sua bottiglia di vino di Spagna, occupazione cui si dedicava religiosamente ogni sera. Gli raccontò quanto era successo tra il cardinale e lui e, traendo il brevetto di tasca, «prendete, caro Athos», disse, «vi spetta logicamente». Athos sorrise con il suo dolce, incantevole sorriso. «Amico», disse, «per Athos è troppo, per il conte di La Fère è troppo poco. Tenete il brevetto, è vostro. Ahimè, Dio mio, l'avete pagato abbastanza». D'Artagnan uscì dalla stanza di Athos e entrò in quella di Porthos. Lo trovò con un magnifico abito indosso, ricamato splendidamente, nell'atto di rimirarsi in uno specchio. «Ah», disse Porthos, «siete voi, caro amico, come vi pare che mi stia questo vestito?» «A meraviglia», disse D'Artagnan, «ma vengo a proporvi un vestito che vi starà ancora meglio». «Quale?» domandò Porthos. «Quello di luogotenente nel corpo dei moschettieri», e riferì a Porthos il colloquio con il cardinale. Poi, traendo di tasca il brevetto: «prendete, mio caro», disse, «scriveteci su il vostro nome e siate per me un buon capo». Porthos gettò gli occhi sul brevetto e lo restituì a D'Artagnan con grande stupore del giovane. «Sì», disse, «questo mi lusingherebbe assai, ma non avrei abbastanza tempo per godere di tale favore. Durante la nostra spedizione di Béthune, il marito della mia duchessa è morto. Sicché, mio caro, visto che la cassaforte del defunto mi tende le braccia, sposo la vedova. Vedete, provavo il vestito di nozze. Tenete per voi la luogotenenza, mio caro, tenetela per voi». E restituì il brevetto a D'Artagnan. Il giovane entrò da Aramis. Lo trovò prosternato su un inginocchiatoio, con la fronte appoggiata a un libro d'ore aperto. Gli raccontò il colloquio con il cardinale per la terza volta. Traendo di tasca il brevetto, gli disse: «Voi, nostro amico, nostra luce, nostro protettore invisibile, accettate questo brevetto. L'avete meritato più di ogni altro per la vostra saggezza e per i vostri consigli sempre seguiti da così felici risultati». «Ahimè, caro amico», rispose Aramis, «le nostre ultime avventure mi hanno reso assolutamente indigesta la vita dello spadaccino. Questa volta la mia decisione è presa irrevocabilmente. Dopo l'assedio entro nei lazzaristi. Tenetevi il brevetto, D'Artagnan. Il mestiere delle armi vi si addice. Sarete un prode e avventuroso capitano». D'Artagnan, con l'occhio umido di riconoscenza e brillante di gioia, se ne tornò da Athos, che trovò ancora seduto al tavolo nell'atto di contemplare l'ultimo bicchiere di Malaga al chiarore della lampada. «Anche loro l'hanno rifiutato», disse. «Gli è che nessuno, amico mio, ne era più degno di voi». Prese una penna, scrisse sul brevetto il nome di D'Artagnan e glielo consegnò. «Dunque, non avrò più amici», disse il giovane. «Ahimè, più nulla, tranne amari ricordi». E lasciò ricadere il capo tra le mani, mentre due lacrime gli rigavano le guance. «Siete giovane, voi», rispose Athos, «e i vostri amari ricordi hanno tempo di mutarsi in dolci ricordi». Privata dell'appoggio della flotta inglese e della divisione promessa da Buckingham, La Rochelle si arrese dopo un anno di assedio. Il 28 ottobre 1628 venne firmata la capitolazione. Il re fece il suo ingresso a Parigi il 23 dicembre dello stesso anno. Gli fu preparato un trionfo, come se tornasse dall'aver vinto un nemico e non dei francesi. Entrò dal Faubourg Saint-Jacques, sotto archi di fronde verdi. D'Artagnan prese possesso del suo grado. Porthos lasciò il servizio e sposò, l'anno dopo, Madame Coquenard. Il forziere tanto agognato conteneva 800.000 livre. Mousqueton ebbe una magnifica livrea e in più la soddisfazione ambita per tutta la vita di sedere dietro una carrozza dorata. Aramis, dopo un viaggio in Lorena, scomparve improvvisamente e smise di scrivere agli amici. Più tardi si seppe, tramite Madame de Chevreuse, la quale lo raccontò a due o tre dei suoi amanti, che aveva preso la tonaca in un convento di Nancy. Bazin divenne frate laico. Athos rimase moschettiere sotto gli ordini di D'Artagnan fino al 1633, anno in cui, dopo un viaggio in Touraine, abbandonò anche egli il servizio con il pretesto che gli era toccata una piccola eredità nel Roussillon. Grimaud seguì Athos. D'Artagnan si batté tre volte con Rochefort e tre volte lo ferì. «Probabilmente alla quarta vi ucciderò», gli disse tendendogli la mano per rialzarlo, Meglio allora per voi e per me che ci fermiamo a questo punto, rispose il ferito. Sono vostro amico più di quanto non lo pensiate, perché fin dal primo incontro avrei potuto, dicendo una parolina al cardinale, farvi tagliare il collo. Questa volta essi si abbracciarono di gran cuore e senza riserve mentali. Planchet ottenne da Rochefort il grado di sergente nelle guardie. Monsieur Bonacieux viveva pacifico, nella più assoluta ignoranza della sorte toccata alla moglie e senza preoccuparsene minimamente. Un giorno commise l'imprudenza di farsi vivo con il cardinale. Questi gli fece rispondere che avrebbe provveduto a che d'ora innanzi non gli mancasse più nulla. Difatti, l'indomani, Monsieur Bonacieux, uscito alle 7 di sera per recarsi al Louvre, non ricomparve più in Rue des Fossoyeurs. Secondo il parere dei meglio informati, era nutrito e alloggiato in qualche castello reale, grazie alla generosità di Sua Eminenza. Buongiorno, sono Giorgio Ficarra. Paolo Bonacelli ha appena letto benissimo I Tre Moschettieri di Dumas e abbiamo ascoltato insieme questo libro d'avventure, che è il libro d'avventura per definizione, e in un certo senso siamo scontenti di esserne usciti. L'avventura è ciò che di norma non c'è nella nostra vita, e dunque trovarla così perfettamente coerente, ricorrente per 600 pagine è per noi un benessere allo stato puro. Non facciamo nulla, siamo sprofondati nella nostra poltrona, come Ariosto era sprofondato nella sua famosa seggiola, e come Ariosto volteggiamo in sulle carte. L'avventura con Dumas e con questo libro in particolare ci viene incontro e ci trasforma e ci trasporta via, ci consola di questa vita che abbiamo, che non è così avventurosa, di questa vita troppo reale che spesso viviamo, sottrae peso e ingombro alla nostra mente, ci rende leggeri, veloci, come non siamo nella vita. Certo, qualcuno potrebbe obiettare, e ha di fatto obiettato, come Flaubert, dopo I Tre Moschettieri siamo quelli di prima, rimaniamo come eravamo prima. Non cambiamo. Questa lettura non pone interrogativi, non ci cambia, non ci induce alla riflessione, non fa ciò che fa la letteratura vera, che in un certo senso insidia, minaccia un po' il nostro equilibrio. Dumas corre via, scorre via come acqua chiara, diceva Flaubert. Eppure, quando D'Artagnan al convento dei Carmes de Chaussée, prima del duello, vuole curare il suo avversario Athos con l'unguento prodigioso che gli ha dato la mamma, Athos risponde: «Per Dio, signore, ecco una proposta che mi piace, sa di gentiluomo lontano un miglio». E commenta Dumas: «Così parlavano e agivano quei prodi del tempo di Carlo Magno, che devono essere il modello di ogni cavaliere». Presentando questo lato umano, cavalleresco di D'Artagnan, Dumas in qualche modo cita i paladini, cita Ariosto, ovviamente, dunque contraddice la sua proverbiale ignoranza o estraneità alla letteratura. I Tre Moschettieri è dunque avventura, nel senso che un certo concetto di avventura preesiste nella letteratura, nei libri, e che la gran bontà dei cavalieri antichi, ariostesca, la nobiltà d'animo, eccetera, era in un certo senso prima, presente, di D'Artagnan. Esisteva la lealtà, la generosità, la lieve follia di D'Artagnan, che prima di uccidere Athos vuole curarlo, ci commuovono, perché D'Artagnan va all'avventura con quelle qualità, e anche perché queste qualità sono già scritte nella letteratura, perché la letteratura le custodisce. Inoltre, quando il duca di Buckingham pone l'embargo, vi ricordate, a tutti i bastimenti nei porti inglesi per poter battere sul tempo il cardinale e restituire i famosissimi puntali di diamante alla sua amatissima regina Anna, D'Artagnan in quel momento lo guarda sbalordito e riflette, dice Dumas, a quali fragili e ignoti fili siano talvolta sospesi i destini di un popolo e la vita degli uomini. Cioè, D'Artagnan per un momento diventa filosofo e si interroga sul caso, sulla necessità, sulla bellezza e sull'infinito dolore portato nel mondo dalla bellezza, sul valore e sull'ingiustizia presente in un solo uomo e così via. Dumas, certo, non è mai profondo. È acqua chiara che scorre. Ma talvolta è come se i suoi personaggi che non pensano, ma innanzitutto agiscano, si fermassero, stupiti che la storia, la grande storia degli uomini, il fatum, sia così maestoso, incomprensibile, inevitabile. È appena un momento, si capisce, un brivido. Poi l'avventura, eternamente fine a se stessa, eternamente disponibile e fluida, ricomincia a portarci via, con Athos, Porthos, Aramis, la deliziosa Madame Bonacieux e la terribile Milady, le fughe, i rapimenti, i duelli e tutte le osterie di Francia e quelle iperboliche sale del Louvre. I nostri pensieri se ne vanno, leggerissimi, grati all'avventura che li sospende e li circonda di incalzanti attenzioni. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it